in primo piano. Una vicenda di cronaca, quella dell'esplosione di ieri a Milano del kamikaze, e la vicenda politica, l'incontro ieri di Berlusconi con gli imprenditori a Monza. Questi sono i due temi che trovate sui giornali. Il Corriere della Sera li mette insieme in una sorta di doppia apertura, proprio kamikaze in caserma a Milano e Berlusconi, gli imprenditori si ribellino agli anti-italiani. È l'apertura del Sole 24 Ore, incentrata ovviamente sull'economia, sull'incontro di ieri, riforme e stabilità istituzionale, Marcegaglia, governo avanti senza polemiche, il premier sintonia con le imprese. Per Repubblica, Berlusconi, nessuno mi fermerà, industriali, ribellatevi a Repubblica. Questo l'appello che mette in prima pagina il quotidiano di Ezio Mauro. La Stampa, Berlusconi, andiamo avanti. Libero invece punta sul kamikaze, il kamikaze in casa popolare. Napolitano, lodo, nessun patto sul Messaggero. Questo è l'altro tema che trovate sicuramente sui giornali, vale a dire retroscena politici ancora dopo il lodo Alfano. Io voglio partire proprio dalla vicenda di cronaca ieri di Milano. Ci sono tanti resoconti su la figura di questo Mohamed Ghame. Ora ovviamente ci si chiede chi sia, un cane sciolto oppure un rischio più concreto. Dal sogno di fare fortuna ai debiti, il mistero di Mohamed, lupo solitario. Così scrive Carlo Bonini a pagina 7 di Repubblica. Chi è davvero Mohamed Ghame? E soprattutto da dove diavolo salta fuori, si chiede Bonini. La chiave della tentata strage di Milano è in due domande, cui a 24 ore dall'esplosione né la procura né gli uomini dell'antiterrorismo né la nostra intelligence sono in grado di offrire risposte definitive. Per quel che se ne sa, Mohamed Ghame, 34 anni, libico di Bengasi, laureato in ingegneria elettronica nel suo paese, a Milano da almeno 9 anni, è un fungo fiorito nel nulla, nella periferia ovest della città. Nel 2007 una banale denuncia a piede libero perché è pescato al volante di un'auto rubata. Da allora qualche innocua segnalazione perché identificato in diverse città lombarde durante i periodici pattuglioni di polizia. Insomma, era anche finito su un giornale, il quotidiano cittadino Cronaca Qui, che lo aveva scelto il 6 agosto scorso come immagine significativa di disperazione urbana. Ce n'è abbastanza, insomma, scrive Bonini, per documentare un'esistenza e una condizione emotiva assai complicate. Eppure, a sentire fonti qualificate dell'antiterrorismo, questo non è ancora sufficiente a definire un profilo certo di disagio psichico e materiale. Ovviamente ci sono resoconti sulla vicenda del fatto che fosse un frequentatore della moschea di Viale Jenner. Sul Riformista, per esempio, parlano anche il direttore del centro islamico, Abdullah Hamid Shaari, l'imam Abu Imad, che dicono lo conoscevamo come il libico, ma non era un frequentatore abituale, bazzicava un po' dappertutto ed era conosciuto da tutti come una sorta di pazzo. C'è da dire che in un'intervista su Avvenire Stefano D'Ambruoso, che è un magistrato, uno dei massimi esperti di antiterrorismo per quel che riguarda soprattutto il terrorismo internazionale, non dico che minimizzi, però tranquillizzi un po', dice: è un caso isolato, nessuna strategia. Un episodio isolato, figlio di una mente disturbata, non ha nulla a che vedere col terrorismo islamico, dice D'Ambruoso. Come difendersi da attacchi di questo tipo è praticamente impossibile, non trattandosi di iniziative programmate né comunicate ad altre organizzazioni, sono molto difficili da intercettare e prevenire. Comunque, lei esclude si tratti di un terrorista? Direi di sì, dice D'Ambruoso. Siamo in presenza di una persona mentalmente disturbata che poi è anche di religione musulmana, ma questo tipo di patologie esiste a prescindere dalla fede e dai convincimenti religiosi. Non è dello stesso avviso Libero, che, come ha detto, titola in prima pagina il kamikaze in casa popolare, e Maurizio Belpietro inizia il suo editoriale proprio così: vedrete, hanno cominciato a definirlo un lupo solitario, ma presto finiranno per dire che non ci stava con la testa, era pure un po' depresso per via della nostalgia del paese d'origine e del lavoro che andava male, un attentatore fai da te. È questo il ritratto che radio e TV fanno di Mohamed Ghame, una descrizione che pare perfetta per un disadattato. Poi Libero dedica all'interno varie pagine, in realtà, a dire che c'è anche un'intervista a Daniela Santanchè, a dire che insomma bisogna controllare quello che succede nelle moschee, eccetera. Graffiante è Iena, tra l'altro, a pagina 3 della Stampa, lo voglio leggere. Siamo un paese talmente anomalo che neanche i kamikaze riescono ad ammazzarsi. Cambiando tema, l'altro grande tema che trovate sui giornali, come detto, è il tema economico-politico. Ieri Berlusconi era all'Assemblea degli imprenditori di Monza e Brianza e l'apertura del Sole 24 Ore. All'interno Marcegaglia, rispettare Napolitano, solo così si rispetta l'Italia, il governo rimbalzi le polemiche e vada avanti. Questo riassunto dell'intervento del presidente di Confindustria. Tra l'altro, dice Marcegaglia, al paese non servono delegittimazioni, servono le grandi riforme, non l'instabilità politica. Indebolire le istituzioni è un danno per tutti. E tra l'altro, proprio sul Sole 24 Ore, a firma Giorgio Santilli, proprio sotto a questo resoconto delle vie del rilancio, c'è un articolo non incoraggiante. Al Senato, frenata per le liberalizzazioni, si profila a Palazzo Madama un'altra correzione al ribasso per la riforma dei servizi pubblici locali, scrive Santilli. Dopo l'esclusione integrale dalla liberalizzazione dei settori del gas e dell'energia elettrica introdotta dal governo nell'ultima versione del decreto legge Ronchi, un altro aggiustamento arriva in favore delle società quotate in borsa come l'Acea di Roma. A prevederlo è un emendamento del relatore in Commissione Affari Costituzionali, in questo caso il senatore Malan, un voto degli emendamenti che dovrebbe cominciare già oggi, e vengono concessi sostanzialmente, con questa modifica, se approvata, 3 anni di tempo in più fino al 2015 per adeguarsi alle nuove regole e dunque una frenata per le liberalizzazioni, secondo il Sole 24 Ore. Tra l'altro, segnalo anche sul Foglio un interessante nota economica dal titolo Berlusconi medita un colpo d'ala per soddisfare le attese delle imprese. Governo Brianzolo, così scrive il Foglio, un'offerta per Marcegaglia. I rapporti tesi con il Quirinale, la magistratura, la stampa ostile non incrementano il consenso, non soddisfano le aspettative degli elettori. Serve quindi un colpo d'ala e il Cavaliere avrebbe una gran voglia di annunciare un bel taglio dell'IRAP e di qualche tassa che grava sulle famiglie, un bis del colpo di spugna sull'ICI, ma Giulio Tremonti tiene i conti chiusi a chiave. Le munizioni del tesoro sono per ora scarse, circa 12 miliardi tra residuo dei T-bond, i Tremonti bond, e introiti da scudo fiscale, metà del gettito IRAP. Eppure, delle richieste riproposte da Emma Marcegaglia, taglia all'IRPEF e riduzione dell'IRAP, il tesoro sta studiando proprio la seconda. Tra tagli all'imposta personale e intervento sull'IRAP ragionano al Ministero. Se si dovesse agire, si partirà proprio dall'IRAP. Infatti l'imposta sui redditi personali grava soprattutto sui dipendenti e pensionati già al riparo nella crisi. Dunque, questo, secondo il Foglio, sarebbe il colpo d'ala che medita Berlusconi. Ovviamente ci sono vari resoconti di quello che è l'incontro di ieri, proprio a Monza, ma ci sono anche vari interessanti resoconti riguardo a quello che è la situazione politica dopo la bocciatura del Lodo Alfano. Ancora tiene banco sui giornali questo tema. Il Sole 24 Ore scrive: il Colle nega patti sul Lodo Alfano, la Corte richiama la sentenza Previti, udienze tengano conto di impegni parlamentari. Che succede? C'è stata appunto questa nota di Napolitano che ha smentito accordi con il governo per la scrittura della norma, tra l'altro il che dà adito a due quotidiani di fare un titolo simile, un titolo più emblematico di così davvero non si può. Il Riformista, lo sputtanato, questo è il titolo in prima pagina, Napolitano sbugiarda le ricostruzioni del Cavaliere sul Lodo, e il titolo anche del Manifesto, che mette una sorta di manichino, una sorta di pupazzo con la faccia di Berlusconi, è proprio questo, sputtanato. Ben diversa la scelta da questo punto di vista del Giornale. Il Giornale mette questa notizia in prima pagina. Il titolo è Napolitano scrive, Feltri risponde. C'è la pubblicazione di tutta la nota del Presidente della Repubblica Napolitano, che appunto dice l'intesa col governo non c'era nessun patto, e sotto Vittorio Feltri scrive: non ho mai parlato di patti stipulati, come invece si legge nel comunicato. Ho scritto una cosa molto diversa, patto tra gentiluomini, che non significa contratto con tanto di firme e timbri, bensì accordo tra persone per bene, che non ha bisogno dei crismi dell'ufficialità. E proprio di questo si è trattato, scrive Vittorio Feltri. Nel caso specifico è stata una cooperazione molto intensa, tanto è vero che alla stesura del testo ha partecipato attivamente il suo consigliere giuridico. Vittorio Feltri si rivolge a Napolitano. Il suo consigliere giuridico, Loris D'Ambrosio, già capo di gabinetto del ministro Diliberto di Grazia e Giustizia, il quale non penso abbia agito senza informarla su quanto andava facendo per rendere approvabile il lodo Alfano. E dunque conclude Feltri questa risposta alla nota di Napolitano: gli sconfitti sono due, il premier e lei, presidente. Anche se io voglio rimanere proprio sul giornale, l'ho lasciata per ultimo, diciamo, per chiudere la pagina politica, se così si può dire, quello che il giornale pubblica in prima pagina. Attenzione, perché secondo me è la notizia più interessante che trovate oggi di politica. Smagliatura nell'esecutivo. C'è una foto di Giulio Tremonti, l'articolo di Adalberto Signore, la lettera della discordia tra Silvio e Giulio, vale a dire tra Berlusconi e Giulio Tremonti. All'interno c'è la pubblicazione di un documento segreto, almeno così viene presentato, a pagina 5 del giornale. Tremonti, la lettera che ha irritato Berlusconi. Che cosa avrebbe fatto il ministro dell'economia? Il titolare dell'economia ha riunito i soci dell'Aspen Institute all'indomani del no della consulta al lodo. Tema dell'incontro bipartisan: costruire il dopo e creare una leadership basata su un consenso non solo immediato e mediatico. Il giornale pubblica questa lettera, una lettera che dice doveva rimanere riservata e personale ovviamente agli invitati dell'Aspen Institute. Uno degli invitati di rango era Gianni Letta, che ha deciso solo alla fine di prendervi parte, secondo il resoconto di Adalberto Signore. Ma insomma, c'erano il presidente di Finmeccanica Guarguaglini, il capo di Intesa San Paolo Passera, il presidente dell'autorità garante per la concorrenza Catricalà, il presidente di Farmindustria Dompei, il ministro Brunetta, il vice ministro Calderoli, insomma, alcuni degli invitati. Un discreto parterre, dice ad Alberto Signore. Il punto è che quando a Berlusconi arrivano gli echi della tavola rotonda, così almeno la raccontano a Palazzo Grazioli, e qui c'è il retroscena, c'è una telefonata tra i due, tra Berlusconi e Tremonti, una telefonata che secondo il giornale è piuttosto animata, anche perché per il premier non è la prima incomprensione col titolare dell'economia, che continua a respingere le richieste di tutti i dicasteri perché, ripete, soldi in cassa non ce ne sono. Qualche tempo fa addirittura passò con un piattino in mano durante il Consiglio dei Ministri per lasciare intendere a Michela Brambilla che per il turismo non c'era un euro. L'ultimo fronte però, secondo il giornale, che si è aperto è quello con Gianni Letta, visto che solo una decina di giorni fa Tremonti ha minacciato le dimissioni, pare già scritte, perché il sottosegretario alla presidenza del Consiglio aveva incontrato il presidente dell'ABI Corrado Faissola nei giorni più caldi della trattativa tra governo e banche su credito alle imprese e Tremonti Bond. Insomma, tutto questo lo trovate sul giornale, con il titolo in prima pagina, la foto di Tremonti e smagliatura nell'esecutivo. Beh, davvero un qualcosa che fa abbastanza riflettere. Ci fermiamo per il traffico, poi ci sono tante altre notizie, anche ancora di politica, ma non solo, sui giornali. In primo piano. Per rimanere tra politica e retroscena, pronta la riforma della giustizia, separiamo subito carriere CSM, così leggete su Repubblica, pagina 3. Si sarebbe già previsto per settimana prossima un progetto di legge, riforme urgenti in materia di giustizia, e dentro, secondo Liana Milella, c'è la sorpresa, la separazione delle carriere tra PM e giudice fatta per legge ordinaria, seguita da un impesante intervento sul CSM, anch'esso senza ricorrere a norme di rango costituzionale. Questa sarebbe la strategia, soprattutto su separare le carriere tra giudici e PM dell'accusa, i pubblici ministeri. Questa sarebbe la riforma allo studio del Premier, del Presidente del Consiglio, secondo Repubblica. Trovate anche come retroscena sul Fatto Quotidiano: distruggete quel giudice, questo è il titolo d'apertura. Berlusconi scatena i suoi cronisti, il Premier dice su quella toga, la toga è quella che gli ha dato, diciamo, ha condannato la Fininvest al maxi risarcimento, alla CIR. Su quella toga ne sentirete delle belle. Secondo il Fatto ci sono già dei cronisti di chi, per la precisione Gabriele Parpiglia, il braccio destro del direttore di Chi, che avrebbe già fatto e starebbe già facendo varie indagini, secondo quanto risulta al fatto, sull'anagrafe, sulle parentele, sui luoghi dove il giudice Mesiano, che è colui che ha scritto la sentenza, è vissuto e cresciuto, chiedendo notizie sul suo stato di salute. Addirittura questo secondo il Fatto. Trovate anche tutta un resoconto sull'immunità parlamentare. Questo mi serve per rilanciare il sondaggio che tratteremo più avanti alle 8:30. Secondo il Giornale, così l'abolizione dell'immunità ha consegnato l'Italia alle toghe. Un lungo articolo di Giancarlo Perna. La riforma fatta sull'onda di Tangentopoli ha rovesciato il rapporto tra poteri. Secondo Perna, ora i magistrati sono liberi di mettere sotto accusa i parlamentari stravolgendo il voto. Questa è la visione ovviamente del Giornale. Noi vi chiediamo che ne pensate, reintrodurreste l'immunità parlamentare? Ne parliamo alle 8:30 e dovete votare sul sito. Per concludere la vicenda rapporti stampa e potere, ricordando che Oscar Giannino ne parlerà alle 9, soprattutto delle critiche di Berlusconi alla stampa estera, oggi trovate una risposta di Eugenio Scalfari a Ferruccio De Bortoli. Direttore del Corriere ieri aveva risposto a Scalfari, peraltro anche a Travaglio, in prima pagina del Corriere della Sera. Oggi Eugenio Scalfari, in un editoriale dal titolo Il coraggio della stampa, risponde, controrisponde a Ferruccio De Bortoli, dicendo: io mi guardo bene dall'augurarmi che De Bortoli condivida le nostre idee. Capisco anche, come scriveva il Manzoni, che il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare, ma da qui a sottacere il significato della deriva italiana, morale, politica, economica, sbandierando come titoli di merito verso il governo gli articoli scritti in suo favore, quelli scritti a suo tempo contro il governo Prodi, infine la definizione di Repubblica come gruppo editoriale nemico del Premier e degli interessi del Paese, questo è un modo volutamente rassegnato di praticare una professione che ha come principio deontologico quello di controllare il potere ad ogni passo e in ogni istante. Insomma, questo è il succo centrale, il cuore dell'editoriale di Eugenio Scalfari, che è una risposta molto dura a quello che ha scritto ieri Ferruccio De Bortoli, a dire che insomma anche i rapporti tra due più importanti giornali di diffusione in Italia sono rapporti molto tesi. Tra l'altro, quel mezzo non è un mezzo mediatico, ma è un partito. Indovinate chi l'ha detto? Se Berlusconi di Repubblica? No, l'ha detto praticamente Barack Obama di Fox News. Fox News non è una TV, è un partito. Obama alla resa dei conti con Murdoch, il portavoce della Casa Bianca, a dir la verità, il portavoce di Obama ha detto: sono come un partito di opposizione, stanno conducendo una guerra contro Barack Obama, non potremo far finta di niente. Da qui, insomma, la Fox è sempre stata esclusa dalle interviste a Obama. Dopo mesi di critiche, ora la Casa Bianca passa al contrattacco, fanno opinioni mascherate da fatti e dunque li tratteremo come un partito. Questo succede negli Stati Uniti. Voglio segnalarvi in chiusura un interessante forum alla stampa, dove i manager, i numeri uno, diciamo, di Alitalia, vale a dire Sabelli e Colaninno, sono andati a parlare della nuova Alitalia. Alitalia è cambiata, costi più bassi, meno efficienze. Trovate il resoconto di questa chiacchierata, questa intervista molto interessante all'interno della stampa. Parlano per esempio, le accuse di monopolio sulla tratta Roma-Milano. Sabelli dice: è stata l'Europa a decidere. E Colaninno: noi facciamo quello che dice l'antitrust. E ancora i conti. Sabelli: nel primo trimestre abbiamo perso 210 milioni, ma nel terzo ci aspettiamo un pareggio a livello operativo. E ancora Colaninno dice: stiamo dimostrando che è stato giusto non vendere ai francesi. Infine su Malpensa, leggo, ma sono due pagine molto intense e fitte: non stiamo voltando le spalle a Malpensa, anzi inaugureremo presto un'altra rotta intercontinentale verso Miami e poi lanceremo nuovi voli a prezzo contenuto col marchio Air One per far concorrenza a EasyJet e Lufthansa. Non vuol dire che diventeremo una low cost, non ne abbiamo la mentalità e non ne abbiamo la struttura. Questo è l'incontro con Rocco Sabelli, amministratore delegato, e Colaninno, presidente della nuova Alitalia. Ci fermiamo qui, le altre notizie le potete approfondire sui giornali. Io vi rilancio il sondaggio alle 8:30. Reintrodurreste l'immunità parlamentare? Votate sul sito radio24.it o il sole24ore.com. Se volete chiamarci per intervenire, 800 24 0024. Ci sentiamo dopo GR24.